essere libero quando ho chinato il capo. Ho smesso d'essere libero, merdoso, non ne ho parlato. Ho smesso d'essere libero quando ho aspirato. Ho smesso e ho ricominciato. Da tempo cado senza un appiglio, fino a quando mi schianterò al suolo, al suolo. Se capita anche a te ti do un consiglio, mentre precipiti goditi il volo, il volo. Precipito come pioggia, io mi godo il volo mentre precipito come pioggia, bro, precipito come pioggia. Precipito come pioggia, io mi godo il volo mentre precipito come pioggia, bro. Ragazze false come le loro borse, mi sento perso in mezzo ai loro forse. Su strade percorse tra mille percorse, mi sono fatto le peggiori corse per liberarmi da tutte queste morse. Fra, mi godo il volo qua mentre precipito, livello critico mi trovo in bilico, driver e mitico, mi fate schifo perciò io non butto mai il dito, bro. Sai che tutta l'altra roba mi fa cagare, infatti queste perle qua ti rendono stitico. Ognuno di voi dovrebbe pagare per ogni singola mia lettera che digito. Come pioggia di inchiostro che cade su carta, si gode il volo fino a quando si adatta al pensiero di chi l'ha sottratta da una condizione in cui restava intatta. Ma ormai è fatta, vado avanti verso la mia disfatta. Amo sfidare la mia vita matta, ma devo stare attento perché più lo faccio più le mi ricatta. Sono fresco come una rosa, però sono pieno di spine. Non parlo per dire qualcosa, ma perché ho qualcosa da dire. Non puoi capire, spesso sono incapace di reagire. Non posso muovermi in caduta libera, fra precipito senza una fine. Da tempo cado senza un appiglio, fino a quando mi schianterò al suolo, al suolo. Se capita anche a te ti do un consiglio, mentre precipiti goditi il volo, il volo. Precipito come pioggia, io mi godo il volo mentre precipito come pioggia, bro, precipito come pioggia. Precipito come pioggia, io mi godo il volo mentre precipito come pioggia, bro. Sto cadendo e non ti accorgi, bro, che non crollerò e vivrò anche se so che morirò. Mentre cado al suolo mi inviderai come invidi chi ciampanerai. Il tempo è prezioso ma non il denaro, precipito al suolo ma in volo preparo le mosse giuste per scappare a quelle fuste che mi tirano dietro bruciando la schiena. Io cado come pioggia ma acida, intera arida, e non mi fai carità però mi fai pietà, perché se cadi non tardi, sei un uomo sconfitto, fra è meglio che taci. Noi siamo capaci di volare in alto senza un impatto, senza uno schianto. Siamo rapaci proprio come un falco, in cielo ho già visto la preda che attacco. Cado a terra ma io non mi arrendo mai, cado come pioggia e non mi bagno mai. Camerò poche medaglie perché ho vinto poco, la mia vita è un ossimoro. Cado come pioggia ma c'ho il fuoco dentro, frate non mi arrendo. In volo sento l'adrenalina che mi rende sveglio, mi godo il volo prima di cadere al suolo. Sono come pioggia fredda nel deserto caldo mentre cammini da solo. Da tempo cado senza un appiglio, fino a quando mi schianterò al suolo, al suolo. Se capita anche a te ti do un consiglio, mentre precipiti goditi il volo, il volo.